24 mattino. Buongiorno Simone, volevo lamentarmi un po' perché 500 euro per gli autonomi fino a raggiungere 170 milioni, cioè non tutti potranno nemmeno prenderli, mi sembra veramente una beffa, e quindi non è vero che Conte è vicino a tutti. Grazie. Caro Simone, buongiorno. Continuano a dire che non bisogna preoccuparsi per la spesa, ma hai mai provato a entrare in un supermercato e facendo tutta la coda? Scaffali vuoti ieri sera, vuoti, dopo che c'era stata la fornitura la mattina. Non è allarmismo questo, prova a vedere, chiedi a tua moglie visto che hai tre figli. Ciao Luciano. Tutto questo allarmismo, il medico ha avuto non altro che una influenza e basta, dai sintomi che ha raccontato. Sì, certo, però è il medico che abbiamo sentito prima è un epidemiologo, insomma, è uno che è il responsabile dell'epidemiologia di Bergamo e quindi non racconta solamente di se stesso, racconta di tutti gli altri. Ragazzi, qua non c'è allarmismo. C'è un giusto allarme per una situazione complicata. All'ascoltatore mi dice della spesa. Sì, innanzitutto le dico, non devo chiedere a mia moglie perché la spesa gran parte delle volte la faccio io. Sì, ieri sono andato a fare la spesa, ho fatto la fila lunga, mezz'ora ad aspettare, poi siamo entrati e poi alla fine, insomma, c'era una parte degli scaffali vuoto ed era già mattina, erano già le 10, 10 e mezza. È un punto da tenere presente, è chiaro che gli approvvigionamenti in questo momento sono più difficili, però devo dirvi la verità, ho sempre trovato quello che cercavo, almeno nei supermercati di Milano, che pure in una situazione difficile da più lungo tempo rispetto al resto d'Italia. Quindi tranquilli, le cose arriveranno, si troveranno, la logistica si sta muovendo, gli amici camionisti che ci scrivono ce lo raccontano e direi che insomma su quello non c'è problema. E poi gli autonomi, che vi devo dire? Io vi sono molto vicino, pur non essendo un lavoratore autonomo, perché vedo che a voi non ci pensa mai nessuno. O ci pensano molto poco, o semplicemente non hanno chiaro esattamente in che situazione siete, oppure vi trattano da evasori punto e basta, e quindi dice vabbè, tanto chi se ne frega, questi hanno fatto il nero e trattiamoli un po' peggio degli altri. O ulteriore elemento, forse non vi siete mai saputi organizzare con una rappresentanza degna di questo nome per far sentire la vostra voce. Guardate che è fondamentale, fondamentale. Gli autonomi dovrebbero trovare una voce, non dico una voce unica, perché poi ci sono tante differenze, però una voce per farsi sentire. Eh sì, al momento è previsto poco e oggettivo, insomma, poi ci torneremo su questo tema, perché so che è importante. Le vostre voci sempre al 349-238-6666. Via WhatsApp audio, in questi giorni lo sapete, vi chiedo soprattutto la vostra voce, così ci sentiamo, ci teniamo un po' più vicini. È la seconda parte di 24 mattino di questo martedì 17 marzo, sono le 7:23 minuti e 36 secondi e siamo alla lettura dei quotidiani. Molti si dedicano alla questione del decreto, naturalmente. A partire dal Sole 24 Ore, lunedì nero per borse, oro e petrolio, ecco tutti gli aiuti decisi dal governo, e questo è il titolo principale. Virus, arrivano 10.000 medici, è quello del Messaggero. Più polemica la verità, un decretino contro il virus. Il Fatto Quotidiano, un antivirus da 25 miliardi. Corriere della Sera, più freddamente, più medici, stop a tasse e mutui. La Stampa e Repubblica si dedicano invece alla chiusura dei confini da parte dell'Europa. Virus, l'Europa blinda i confini di Schengen. Europa chiuso al mondo è il titolo della Repubblica. Che tra l'altro una foto carinissima in prima pagina. Ed è la foto di un bambino appena nato, un neonato all'ospedale Niguarda di Milano, a pancia in giù, c'è tutto, ci sono i piedini, le pieghe delle spalle, della pelle, e il pannolino che ha un arcobaleno con scritto "andrà tutto bene". Il manifesto, o la borsa o la vita, il tema è sempre quello, un po' dei mercati e dall'altro del decreto. Il governo avvia la cura, il titolo di Avvenire. E il Quotidiano Nazionale si dedica a un tema che tra un attimo approfondiremo e che abbiamo già toccato prima, il pressing dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, i test a tappeto. Dai che rallenta, il titolo del giornale sul trend al ribasso della crescita dei contagiati, e tutte le scemenze sul virus è quello di Libero. Veniamo dunque a questa rassegna stampa che, come sempre in questi giorni, care amiche e cari amici, è inevitabilmente dedicata al coronavirus e ai suoi effetti. Iniziamo però da qualcosa di laterale, oddio, nemmeno troppo laterale, perché ha a che fare con la vita di tutti noi. E iniziamo dalla Stampa a pagina 13. Dunque, quanti di voi sono ormai da giorni, dico soprattutto in Lombardia, chiusi in casa con figli, moglie, o se siete mogli ovviamente col vostro marito, col vostro compagno, oppure se siete genitori single con i vostri figli, oppure da soli, Il tema che sta emergendo piano piano è quello degli effetti psicologici di questa convivenza forzata. Ne troviamo traccia in qualche quotidiano, e prenderei la Stampa a pagina 13, "La quarantena stravolge la vita in famiglia". Il pezzo lo firma Monica Serra. C'è questo allarme degli psicologi che arriva: equilibri a rischio, la convivenza coatta è causa di separazioni e suicidi. Il pezzo inizia con un po' di storie, un po' di esempi. Silvia, mamma single, ha due bimbe di 3 anni e mezzo e 5 anni. 8 ore al giorno di lavoro in smart working, che, aperte virgolette, così ha ben poco di smart. I genitori anziani lontani, barricati in casa per paura del virus, e nessun compagno con cui dividere il peso di queste giornate. Marco è un manager in carriera. Dal suo ufficio, in cui trascorreva 12 ore al giorno, ha sempre amato moglie e figlia, ma ora che è costretto a condividere con loro tutto, si sente oppresso e si chiude in macchina per evitare di ascoltarle, perché urlano e parlano troppo. Luca, giovane avvocato, divide la sua casa a Milano con 2 coinquilini. Uno ha la febbre alta da giorni, ma non vuole chiamare il 112, e lui è arrabbiato, ha paura e minaccia di denunciarlo. Insomma, l'altra faccia del coronavirus, racconta Monica Serra, è questa: la convivenza coatta in case spesso troppo piccole per rispondere alle esigenze di tutti, una condizione straordinaria alla quale nessuno era pronto. Il professor Fabio Sbattella, ordinario di psicologia dell'emergenza all'Università Cattolica di Milano, dice... dice questo: è una condanna agli arresti domiciliari e abbiamo appena iniziato a scontare la pena. Aggiunge: tra le molte difese dell'essere umano c'è levitarsi, allontanarsi per tornare vicini, la costrizione negli stessi spazi. Un bilocale, un trilocale può essere un modo per guardarsi in faccia e affrontare i problemi che sono ordinari in ogni famiglia, ma fa saltare le difese e molte situazioni rischiano di esplodere. Guardate che non è solamente una sensazione, e se volete una sensazione di tutti noi, perché poi la tensione capita di percepirla in certi momenti a casa. Alcune ricerche, spiega questo docente di psicologia, alcune ricerche sulle famiglie post terremoto in Italia e Albania e sulle coabitazioni di blocco dimostrano che dopo situazioni di questo tipo si registra un aumento di divorzi e, a distanza di 1-3 anni, un aumento di suicidi o atti di autolesionismo. Questo anche perché ci sono tante famiglie che vivono già situazioni di disagio, di dipendenze da alcol o droga, di maltrattamenti, che questa condizione non può che aggravare. Dice lo psicologo: cosa può significare, per esempio, per una ragazza che soffre di anoressia, essere costretta a sedersi a tavola 2 volte al giorno con tutta la famiglia? Ebbene, questa è una domanda, è una giusta domanda tra le tante che riguardano questa convivenza forzata, perché poi certo è giusto dire mantenere le distanze, i contatti sociali diradati, uscire il meno possibile, certo, e però poi in casa bisogna affrontare anche questo. Casa che potrebbe essere la causa in un pezzo, dirvi la verità, l'ho trovato finora solo sul Messaggero questo spunto, siamo a pagina 8, il pezzo lo firma Luca Cifoni ed è uno spunto che ha a che fare con il perché siano così alti i tassi di mortalità in Italia. C'è certo la questione dei tamponi che sono stati fatti magari in alcuni casi in maniera meno estensiva, e lo sappiamo, lo abbiamo raccontato, ci arriveremo tra un attimo parlando dell'esempio veneto. Ma c'è anche altro, c'è la struttura familiare tipica soprattutto dei paesi mediterranei. E allora, tanti anziani che vivono con la famiglia, ecco perché l'Italia ha il record di letalità, scrive Luca Cifoni. Insomma, certo, c'è la nostra esperienza empirica, il fatto che sappiamo che capita più spesso in Italia, soprattutto in provincia, che si viva o insieme o a poca distanza. E però, scrive Cifoni, gli anziani italiani per tradizione e organizzazione sociale vivono in contatto più stretto con il resto della popolazione ed anche con la fascia giovane rispetto a quanto non avvenga in Nord Europa. Ci sono delle ricerche su questo. Eurostat segnala come da noi i 2/3 dei giovani tra i 18 e i 34 anni viva ancora con i genitori, contro il 40% dei coetanei tedeschi. Il fenomeno persiste pur se con minore intensità a età maggiori. Per il nostro paese, i ricercatori tedeschi Christina Bayer e Moritz Kuhn hanno calcolato per il nostro paese una percentuale superiore al 20% nella fascia tra i 30 e i 49 anni che vive ancora con i genitori. Sempre guardando le cose da un altro lato, Eurostat ci fa sapere che in Italia il 17,4% degli anziani vive in coppia insieme ad altre persone. In Germania la percentuale non arriva al 3%. Appunto, struttura simile a quella di altri paesi mediterranei, come la Spagna, che si sta avvicinando anch'essa a un percorso di alta mortalità superiore. Una pausa. Mattino. E un grazie a tutte le donne, madri, mogli, nipoti, nonne, fidanzate, compagne che in questi giorni sono solo infermiere in prima linea. Buongiorno Simone, un saluto da uno che da quando è iniziata la crisi del coronavirus non si è mai fermato un secondo, sempre a lavorare più di prima, a consegnare i medicinali nelle farmacie. E ricordatevi, andrà tutto bene. Un abbraccio a tutti. Andrà tutto bene in facciamo che vada tutto bene. Eh sì, dipende anche da noi, dai nostri comportamenti. Oh, lo dico alla prima ascoltatrice, grazie anche agli infermieri, non solo alle infermiere. Però sì, ci sta. E grazie all'ascoltatore che, insomma, tutti i giorni trasporta medicinali nelle farmacie. Un ascoltatore invece scrive: scusate, ma perché la gente si lamenta? Questa è la situazione, piangersi addosso non serve a niente. Oh, voglio dirvi, questa è una riflessione, per carità, personale, vale per quello che vale, quindi prendetela per quel che è, insomma, sono uno come voi su questo. Io penso che in questo momento la gente, le persone, tutti quanti, abbiano il diritto, fatti salvi i comportamenti non corretti, come quello di uscire di casa, uscire di casa troppo, assembrarsi, eccetera, eccetera, di dire e di fare un po' quello che vogliono. Cioè, se uno sente che la sua valvola di sfogo è il lamentarsi, se un altro sente che la sua valvola di sfogo è il professare ottimismo, bisogna e dire che andrà tutto bene. Beh, secondo me questa è una fase nella quale alle persone non vanno rotte le balle, la dico proprio brutale. Stiamo tranquilli, siamo in una situazione complicata tutti quanti, fatichiamo a leggerla tutti quanti, forse noi ci riusciamo un po' di più perché abbiamo parecchie fonti di informazione e via dicendo, che cerchiamo di fornirvi, però insomma stiamo tranquilli, se uno vuole lamentarsi anche sui social eccetera, si lamenti pure, se uno vuole dire che andrà tutto bene dirà che va tutto bene, se un altro vuole raccontare come va la sua vita in famiglia e non bisogna rispondergli ah guarda pensa alla vita dei medici e degli infermieri, perché ognuno per così dire in questo momento ha la sua pena, la sua paura e la sua preoccupazione, e quindi stiamo tranquilli e non rompiamo le scatole agli altri. Lo dico senza polemica naturalmente con l'ascoltatore che ha scritto questa cosa, ovviamente lo dico proprio a livello generale, magari mi sbaglio, magari mi sbaglio, però insomma questo è il mio pensiero. Dunque veniamo nella parte centrale della nostra rassegna stampa, direi secondo me a quello che è un po' il tema che sta diventando centrale in queste ore dal punto di vista proprio del come tracciare i contagiati. Il sasso nello stagno l'ha gettato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, ma in realtà un nuovo sasso nello stagno, e a questo punto direi un masso nello stagno, l'ha gettato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che insomma dopo aver dato delle linee guida che sembravano dire una cosa diversa ha iniziato a dire bene, a questo punto conviene fare tamponi il più possibile e il più largamente possibile. Per chi ha sentito la prima parte della trasmissione alle 6:30 abbiamo intervistato il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, che ha detto ho intenzione di seguire questa via, cioè finché mi hanno detto il contrario ho fatto il contrario, ma ora che l'OMS dice questo seguirò la linea diciamo più o meno tracciata anche dal presidente del Veneto Zaia, il quale presidente del Veneto Zaia viene intervistato oggi dal Corriere della Sera a pagina 15 in una bella intervista di Marco Imarisio. Tamponi? Li farò a tappeto, del bilancio non mi importa, dice Zaia. Abbiamo solo fatto una scelta diversa. Tamponi a tappeto. Il tema è questo, per carità, nessuna polemica con l'autorità centrale, nessuna rivendicazione di autonomia, non ora almeno. Ma, chiede Imarisio, se la comunità scientifica mi dice che non servono e io invece sono convinto che siano utili, ebbene, continuo a farli. Con quale utilità? Cominciamo da quella più evidente. Anche se trovo un solo positivo, significa che avrò 10 contagiati in meno. Aumento dei tamponi da 3.000 a 11.300 al giorno. Chi paga? Zaia risponde, noi, la regione, del bilancio mi importa poco, vale sempre meno della vita dei miei concittadini, non mi faccia dire che me ne frego dei soldi, ma insomma ci siamo capiti, tutto a spese nostre. E porta l'esempio Zaia di quello che è successo a Vo Euganeo, su 3.000 tamponi abbiamo trovato un cluster di 66 positivi più altri 18 che non erano del paese ma avevano avuto contatti con persone infette, quasi tutti asintomatici. Dopo la quarantena ne abbiamo fatto un altro e siamo rimasti con soli 6 positivi. Insomma, sono a quota 40.000 tamponi in tutta la regione, 2.700 positivi asintomatici e isolati altri 7.000 che hanno avuto contatti con loro. E questo appunto anche per arrestare il virus. Ci torna su questo tema anche il Quotidiano Nazionale che dedica l'apertura a questo elemento e dedica una sorta di domande e risposte in 5 punti che ci pare ben fatto e molto interessante. La prospettiva dell'estensione dei test cambia da una regione all'altra, spiega Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità. Sottoporre la popolazione a controlli a tappeto in Italia allo stato attuale sarebbe utile se fossimo in grado di isolare tutti quei casi positivi al Covid-19 che sfuggono alla diagnosi. Attualmente in una regione come la Lombardia con 12 milioni di abitanti e strutture sanitarie sotto stress ormai al limite sarebbe improponibile, anche perché ormai, come si usa dire, i buoi sono scappati dalla stalla. Discorso il diverso in Veneto, dove il fenomeno è circoscritto. Quindi, come capite, insomma, la cosa se è più facile farla in alcune regioni, più difficile farla in altre. E qua si riporta appunto anche l'esempio ancora una volta di Vo, provincia di Padova, che ha permesso di distinguere tra persone sane e asintomatiche, individuando subito chi andava messo in isolamento. Tutto questo sul Quotidiano Nazionale a pagina 5. Il tema delle regioni e di come si stanno comportando e come si stanno muovendo. C'è uno spunto, un paio di spunti interessanti, sempre dai quotidiani. Il primo lo peschiamo dal Messaggero, il quale ci racconta che proprio in forza di quello che prevede la nostra Costituzione, ossia il fatto che la sanità è demandata alle regioni, ogni regione sta facendo da sé anche per gli acquisti. Neppure l'emergenza da coronavirus, racconta Alberto Gentili, può cancellare l'autonomia delle regioni in materia sanitaria prevista dalla Costituzione, e quindi in queste ore avviene una vera e propria competizione tra governatori, con un problema: arrancano le regioni più povere o meno organizzate o più colpite dal virus, come la Lombardia, le Marche, l'Emilia Romagna, la Campania, la Sicilia, la Calabria, la Sardegna, l'Umbria. In prima fila in questa lotta per la sopravvivenza e per accaparrarsi i dispositivi medici c'è il Lazio. La regione di Nicola Zingaretti, grazie a un'asta internazionale, è riuscita in gara con il governo tedesco ad acquistare 176 respiratori e 8 milioni di mascherine dalla Cina. Tant'è che l'assessore alla sanità, Alessio D'Amato, ha potuto inaugurare ieri il Covid-2 Hospital al Columbus e annunciare altri due hub in terapia intensiva. Ma come capite, il problema è soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno. Si parla delle Marche, delle quali, che non è una regione del Mezzogiorno ma del Centro Italia ovviamente, delle quali abbiamo parlato poco fa con Ceriscioli. In Sicilia, in Calabria, i governatori Nello Musumeci e Iole Santelli tornano a invocare l'aiuto dell'esercito. In Sardegna si assiste allarmati all'aumento dei contagi e alla mancanza dei respiratori. Così il commissario straordinario Arcuri deve e dovrà occuparsi soprattutto delle regioni in difficoltà. L'ipotesi di una centrale unica di acquisti però è caduta perché, come ha spiegato Conte, l'organizzazione della sanità è in mano alle regioni. Dunque, come capite, il compito di Arcuri sarà un compito piuttosto complesso, insomma, il mettere insieme le regioni che hanno bisogno. Il Sole 24 Ore anche ci porta su questo argomento, sulle regioni del Mezzogiorno, perché è là appunto che si addensa la preoccupazione. Il Sud corre ai ripari con 1037 terapie intensive in più. Di fatto si sta cercando il raddoppio, raccontano Vera Viola e Vincenzo Rutigliano, che c'è un Mezzogiorno in allarme. Agli attuali 1219 posti distribuiti in vario modo tra 5 regioni se ne vorrebbero aggiungere altri 1037, e questi sono però programmi sulla carta che vanno realizzati il prima possibile. Nel frattempo i singoli governatori si muovono, per esempio il presidente della regione Campania, De Luca, ha disposto la chiusura non solo di Ariano Irpino, provincia di Avellino, ne abbiamo parlato ieri, lo ricorderete, anche Atena Lucana, Sala Consilina, Polla e Caggiano in provincia di Salerno, e cresce da parte dei medici la richiesta di estendere il numero dei tamponi. Però forse non tutti su questo hanno le spalle larghe come ce l'ha il Veneto, del quale abbiamo parlato poco fa, dico dal punto di vista economico e finanziario. Una pausa. Mattino. Ma lo hanno capito che gli alberghi sono chiusi e che non riapriranno per mancanza di turisti? Di consiglio per i giornalisti, andate sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità e leggete le raccomandazioni, ad esempio come si mettono i guanti, tutti consigli pratici, ok? E divulgate quelli, non le chiacchiere. Ma non è vero, Simone, i supermercati sono più che abbondantemente forniti, quello chissà dove è andata a fare la spesa. Quello chissà dove è andato a fare la spesa. Ma sì, sono riforniti in realtà, insomma, magari manca qualcosa ogni tanto, però sono riforniti, insomma, io, per essere chiari, ieri c'era qualche scaffale vuoto, ma sostanzialmente ho trovato tutto, almeno è la mia esperienza personale, per carità, insomma. Anche se il Sole 24 Ore oggi ci segnala che qualche elemento di difficoltà inizia a percepirsi anche dal settore dell'alimentare. Siamo a pagina 15, lo racconta Micaela Cappellini. La produzione rallenta, certo, per rispettare le nuove doverose misure di sicurezza abbiamo un calo che oscilla tra il 10 e il 20%. A parlare Bruno Piraccini, presidente di Orogel, colosso, come sapete, appunto dei surgelati, una delle più grandi aziende del comparto alimentare italiano. Ci sono delle misure di prevenzione che devono essere fatte all'entrata dei lavoratori in azienda, anche solo per misurare la febbre a tutti ci vuole tempo. Abbiamo ritoccato i turni in modo che i gruppi siano ridotti e non si debbano incontrare troppo tra di loro. E poi Lavoriamo 24 ore su 24. Nella sosta prevista per la refezione si accede a scaglioni e c'è una parte del personale che continuamente deve pulire, disinfettare gli ambienti prima di far entrare il gruppo successivo. Quindi da una parte ci sono le aziende alimentari che dovendo produrre, no, un po' più velocemente in questo periodo in particolare, si trovano però a dover produrre un po' più lentamente. E dall'altra parte, beh, ci sono i dati, per esempio quelli diffusi ieri da Confagricoltura, li riporta sempre Micaela Cappellini. Gli acquisti di riso, c'è stata una corsa alla dispensa, gli acquisti di riso hanno fatto segnare un più 33% nei primi due mesi di quest'anno. C'è stato un più 29% nei primi due mesi di quest'anno per l'acquisto di scatolame, quindi in sostanza si fa dispensa. E però gli approvvigionamenti ci sono e proseguono. A proposito di situazione dell'industria, di situazioni appunto che hanno a che fare con l'economia, c'è il decreto varato ieri, un decreto appunto, come si diceva, da 25 miliardi, e qua proprio sul Sole 24 Ore mi pare che trovate il quadro più completo, con una serie di elementi che possono illustrare abbastanza chiaramente quali sono i punti principali. La sospensione lunga del, già ne parlavamo prima, dei versamenti al fisco per 16 filiere, nel senso che, insomma, sono state, come funziona, lo dico per chi, insomma, si fosse collegato solamente adesso. C'è la sospensione del pagamento di tasse e contributi che viene spostata dal 16 marzo che era ieri al 20 marzo, attenzione, così può sembrare una presa in giro, in realtà è un po' diverso, perché viene in realtà spostata a maggio per tutti quelli che hanno, che sono sotto i 2 milioni di euro di fatturato. E viene spostata a maggio anche per quelli che sono sopra i 2 milioni di euro di fatturato, ma che appartengono a tutta una serie di categorie colpite in particolare dalla crisi, dalla crisi dovuta a Covid-19 naturalmente. I trasporti, tanto per fare un esempio, l'ascoltatore ci diceva non pensano agli alberghi. Gli albergatori, per esempio, e tutto il settore turistico sono alcuni degli esempi. Tutti i dettagli li trovate su Sole 24 Ore, come il... Altri dettagli, il tema degli accertamenti, come andranno gli accertamenti fiscali, come vengono dilazionati, i soldi per le lezioni a distanza, il via libera all'assunzione o quantomeno all'utilizzo di nuovi medici con lo stop all'esame appunto per quelli che sono usciti, che si sono già laureati in medicina. Per le carceri viene allargato l'utilizzo dei domiciliari, un'indennità per gli autonomi, una prima tranche da 600 euro arriverà già in marzo. Come abbiamo già commentato prima, probabilmente non è abbastanza, soprattutto per gli autonomi. Lo stesso governo ha detto in aprile torneremo ad intervenire. Nel frattempo, in questo decreto, inopinatamente cosa torna? All'Italia. La nostra amica Alitalia, alla quale abbiamo già rifornito l'abbiamo già ampiamente rifornita di un paio di prestiti ponte, insomma, nell'arco di questi anni, e che a questo punto va al salvataggio di Stato. Se vi ricordate, da questi microfoni avevamo segnalato che proprio nei primi giorni nei quali stava esplodendo la vicenda di Covid-19, la vicenda del coronavirus, era partita la gara per l'acquisto di Alitalia, e mi sono chiesto da questo microfono, forse non è il momento nel quale tutti faranno la corsa per venire a comprarsi all'Italia, in una fase nella quale il trasporto aereo è sostanzialmente, non dico fermo, ma insomma molto vicino ad essere fermo in gran parte del mondo proprio a causa di questa emergenza sanitaria. In effetti, insomma, alla fine se ne deve arrivare a una, e questa una è nuovamente il salvataggio dello Stato. Bene, lo racconta il Messaggero a pagina 17. Alitalia in salvo almeno per ora, nonostante le tensioni nella maggioranza dissidi che si sono dissolti solo ieri mattina. Alla fine, nel maxi decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, è spuntata la norma che mette in sicurezza la compagnia di bandiera e che prevede, oltre a una dotazione di 600 milioni per arrivare a fine anno e coprire il disavanzo, la costituzione di una nuova compagnia pubblica che rileverà i rami d'azienda di Alitalia. Preme segnalarvi su questo argomento il commento di Alberto Mingardi a pagina 21 della Stampa, che parla di una beffa con i fondi pubblici. Nel decreto che dovrebbe mitigare le conseguenze del coronavirus sull'economia italiana trovano posto 600 milioni per Alitalia, destinata a tornare sotto il controllo pubblico. Era proprio necessario, si chiede Mingardi, mai come in questo momento, quando registrare quotidianamente morti e contagi ci costringe alla conta dei letti in terapia intensiva negli ospedali, dovrebbe esserci chiaro che i soldi del contribuente vanno usati con oculatezza. E ci sembra un punto fondamentale. Poi il commento prosegue e ve lo raccomando. Sul Sole 24 Ore, oltre a tutte le tensioni che ben sapete, che state tutti vivendo sulla vostra pelle dal punto di vista economico, ci sono altre tensioni che gli investitori e anche quelli che hanno un po' di azioni, insomma, stanno vivendo sulla loro pelle, sono le tensioni sui mercati. La Federal Reserve, nonostante il taglio dei tassi e gli stimoli monetari, non ha fatto arrestare il tracollo delle borse, che anche ieri sono state pesanti. Il Dow Jones è crollato, ha messo a segno la peggior seduta dal 1987, un meno 13%, e ieri anche le borse europee un meno 6,10 per Milano, un meno 7,8 per Madrid, lo racconta il Sole 24 Ore a pagina 3 con Andrea Franceschi. Per darvi un'idea, la borsa di Milano nell'ultima settimana ha perso il 36%, più di un terzo del valore, altrettanto Parigi, altrettanto Francoforte, altrettanto tutte le borse europee calcolate in media, altrettanto Londra e altrettanto Madrid, anzi Madrid lievemente di più. E dunque ci fa notare Andrea Franceschi come la mossa della Federal Reserve non ha arrestato il tracollo, mentre Marco Nado nel suo commento sul Sole 24 Ore ci ricorda anche un tema, anche questo l'abbiamo affrontato ieri, lo ricorderete, che forse a questo punto quello che fanno le banche centrali, ossia le politiche monetarie, potrebbero non bastare. Dal Sole 24 Ore vi voglio segnalare anche a pagina 2 tutta una serie di domande e risposte degli esperti, persone che si occupano di investimenti, da Banca Generali, Azimut, l'ANASF, Banca Mediolanum e altri, Intermonte, insomma altri che si occupano di gestioni, che rispondono un po' di domande e di richieste su come gestire questa fase complicata. Abbiamo un po' omesso in questa rassegna stampa e vi ci voglio portare rapidamente con due pagine affiancate, sono quelle del giornale, pagina 8 e pagina 9, quello che sta succedendo all'estero, da una parte la Gran Bretagna, che era partita con questa strategia, consentitevi di dire, un po' a petto nudo, a dire insomma dobbiamo raggiungere l'immunità di gregge, sappiate che dei vostri cari moriranno e quindi proseguiamo la nostra vita di sempre. Ebbene, come forse saprete, ieri Boris Johnson ha fatto una parziale marcia indietro. Certo, non ci sono delle prescrizioni precise, e però ci sono delle dichiarazioni pubbliche nelle quali dice, lo racconta bene Gaia Cesare appunto a pagina 8 del giornale, Boris ci ripensa e dice state a casa, evitate i pub per 3 mesi, insomma per un inglese è tosta sicuramente. E a pagina 9 del Fatto Quotidiano Francesco De Remigis invece racconta la giornata parigina, che è una giornata noi in guerra, il nemico è qui, con Emmanuel Macron che di fatto copia gli italiani. Evidentemente anche a lui quelle foto che abbiamo visto ieri sui giornali di Canal San Martin e sulla Senna della gente assiepata, ovviamente ha colpito pure lui. E dopo il voto nelle elezioni di domenica, insomma, ha deciso di muoversi più o meno come l'Italia. Ci saranno 100.000, lo abbiamo detto, 100.000 uomini delle forze dell'ordine sulle strade. Infine ho una buona notizia, è una questione della quale abbiamo parlato già ieri, lo sapete, ne abbiamo parlato alle 6:30 con il responsabile appunto nel Margherita di Savoia di Torino, il tocilizumab, la cura, quella per l'artrite che riduce l'infiammazione ai polmoni da coronavirus, almeno in alcuni casi. Siamo a pagina 8 del Fatto Quotidiano. Ebbene, dopo i primi 2 casi dei quali si era raccontato al Codugno di Napoli, di 7 intubati, 5 hanno avuto un miglioramento importante dei parametri di funzionalità respiratoria, e dall'ospedale di Latina, dove anche stanno sperimentando, su 16 trattati, 11 hanno mostrato un miglioramento dopo 48 ore. Chiudiamo con questa buona notizia, ci ritroviamo tra poco con Maria Latella e i nostri ospiti.